Buonasera a tutte e a tutti. Stiamo per cominciare questa diretta, circa una mezz'ora, per fare informazione e per cercare anche di ragionare insieme su quella che è la nuova situazione che si è determinata dopo i decreti. Ringrazio tutti coloro che mi stanno seguendo. Vi invito a rilanciare la diretta e a condividerla. Ve lo chiedo sempre, ma ve lo chiedo in particolare oggi perché veramente siamo sommersi da tantissime domande, tantissime richieste. Non riusciamo a rispondere a tutti uno per uno, per cui la diretta è anche un modo per fornire delle risposte che possono essere utili a tante persone. E questa sera a seguire i lavori con noi saranno Alice Finardi, che leggerà anche le vostre domande, i vostri interventi e me li passerà. Vedremo in conclusione di riuscire a rispondere e ovviamente, come sempre, Cora Aranci. L'ultima volta che ci siamo visti non era ancora uscito il libro, è questo, Senza respiro, e c'è la sorpresa della prefazione di Lula. Avevo chiesto a Lula se era disponibile a fare la prefazione, ha accettato immediatamente, ci eravamo conosciuti nel percorso dei forum sociali. Perché ho chiesto a Lula? Perché siamo di fronte a una pandemia, qualcosa di mondiale, di globale. Dobbiamo ragionare non solo su quello che accade in Italia, ma su quello che accade invece nel mondo. Il libro parte dalla Lombardia, attraversa l'Italia, attraversa l'Europa e poi dà uno sguardo anche al mondo. E ho chiesto a Lula anche perché il Brasile vive una situazione non diversissima da quella dove viviamo noi. Cioè anche in Brasile il virus ha un forte alleato, in quel caso è il presidente Bolsonaro, che con le scelte politiche fatte e con quelle non fatte ha favorito la diffusione del virus. Il libro, la prima edizione si è esaurita immediatamente, da domani il libro dovrebbe essere ancora nelle librerie, cioè è arrivata la seconda edizione e chi lo vuole lo può ordinare attraverso il web ad Altra Economia. Come sapete, i diritti d'autore vanno tutti all'ospedale Sacco di Milano, per cui sono molto tranquilla a ripetere del libro perché i diritti d'autore vanno tutti a una struttura pubblica sanitaria a Milano. Allora, ragioniamo su quello che è accaduto. Prima però di parlare del decreto, io vi propongo un ragionamento su quello che è accaduto negli ultimi 30 giorni, perché ci serve per capire cosa poi, quali sono le risposte poi che sarebbero state necessarie e quali sono le risposte che sono arrivate. Allora, noi negli ultimi 30 giorni abbiamo avuto questa situazione, che il 46% delle nuove infezioni individuate ha colpito persone tra i 20 e i 50 anni. Quindi abbiamo un virus che ha attraversato e sta attraversando tutte le diverse fasce d'età. Una percentuale decisamente minore ha colpito le persone ultra settantenni. Ma se andiamo a vedere quante di queste persone sono state ricoverate in ospedale e quante sono arrivate al decesso, la situazione si modifica completamente, e cioè il 20% circa delle persone sopra i 70 anni arriva ad essere ricoverate in ospedale, mentre il 2,5% delle persone sotto i 50 anni arriva a essere ricoverate in ospedale. L'età media e anche la mediana dei decessi è ancora superiore agli 80 anni. Tenete ben presente queste cifre. Quindi il virus colpisce tutta l'età, quasi il 50% è sotto, e cioè il 46% è sotto i 50 anni, però in ospedale finiscono soprattutto gli ultra settantenni e al decesso arrivano persone che hanno 80 anni. Allora, qual è il dibattito vero che c'è stato in questi giorni nel paese prima del decreto di ieri? E che ha ritardato questo decreto e queste decisioni? Dobbiamo cercare di capire bene qual è il confronto. Da una parte abbiamo una fetta importante della politica, degli affari, dell'industria e degli amministratori che brutalmente dicono una cosa semplicissima dentro la loro testa. Evitiamo di fare altri sacrifici economici, evitiamo di dover realizzare altre chiusure nel mondo del lavoro e accettiamo di sacrificare una fetta della popolazione degli anziani. Il ragionamento terra a terra è questo, che poi qualcuno ha anche esemplificato con delle tremende battute che riportano a questo ragionamento, penso al presidente della regione Liguria. Ma però la filosofia che c'è dietro è questa: siccome al decesso arrivano le persone anziane, il nostro paese non può pagare e non deve pagare un altro pezzo economico e quindi sacrifichiamo una fetta di una generazione. Questa è la logica di chi non vuole arrivare al lockdown, non voleva che fossero assunte delle misure. Io vi invito a ragionare su quanto viene affermato, perché, primo, io credo che non sia corretto da un punto di vista etico e deontologico decidere che noi lasciamo andare al suo destino una generazione, quelli che poi oltretutto hanno dato tanto, hanno costruito questo paese e via dicendo. Ma per chi non si sintonizza su questi ragionamenti di solidarietà e di comprensione umana, io propongo un altro ragionamento estremamente freddo. Allora, abbiamo detto che al decesso arrivano le persone che hanno più di 70 anni, ma in ospedale arrivano quelli che hanno più di 70 anni, ma arriva anche un alto numero di persone che hanno tra i 50 e 70 anni. E arriva anche una fetta significativa di persone che hanno meno di 50 anni. Queste persone non arrivano al decesso perché in ospedale vengono curate, perché in ospedale vi sono dei farmaci che non possono risolvere tutto, ma che hanno una loro efficacia. Allora, e parlo a coloro che minimizzano la questione, dico attenzione. Perché se la situazione continua a progredire in questo modo, a un certo punto noi avremo gli ospedali che saranno saturi. Non tanto i reparti d'emergenza, quelli ci metteranno ancora un po', ma soprattutto, ovviamente, i pronto soccorsi, già lo sapete, i reparti di medicina, quelli di malattie infettive e gli altri reparti ospedalieri che sono stati trasformati in reparti Covid. A quel punto non può entrare più nessuno in ospedale. E allora noi avremo che i decessi aumenteranno e coinvolgeranno tutte le fasce di popolazione. Cioè, semplificando, molte persone, anche giovani o persone attorno ai 50-60 anni, non arrivano al decesso perché possono essere curate. Ma se a un certo punto la struttura ospedaliera collassa, allora non è più una questione solo degli ottantenni. E lo dico con chiarezza e con durezza per chi non ha condivide i miei valori etici, per cui ritiene che comunque una generazione possa essere sacrificata, dico guardate che è un gioco pericoloso, perché poi andrete a sacrificare tanta altra gente. I numeri di questi giorni, per certi versi, sono abbastanza impressionanti. Oggi siamo arrivati a 445 decessi, di cui 139 in Regione Lombardia. Allora, un altro suggerimento che vi do. Non andate tanto a guardare quante sono le persone positive. Perché? Perché questo dipende da come vengono realizzati i tamponi. E io ho il sospetto che in qualche regione, nei prossimi giorni, le persone positive diminuiranno. E spiego poi perché. Andate a vedere i decessi. I decessi, i ricoveri ospedalieri e poi i ricoveri nei reparti d'emergenza. È difficile barare attorno a questi numeri e il numero dei decessi ci dà un'indicazione precisa di qual è la direzione verso la quale stiamo andando. Perché dicevo i numeri dei tamponi contano fino a un certo punto, cioè il numero dei positivi? Per un motivo molto semplice. Faccio un esempio. 24 ore fa è arrivata una circolare dell'ATS, cioè dell'ASL di Milano, a tutti i medici di famiglia, dove si comunica che non verranno più realizzati i tamponi sui contatti delle persone positive. È chiaro che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a Milano e in Lombardia si rinuncia a fare il contact tracing, a inseguire il virus, a delimitare il campo d'azione. I tamponi torneranno a essere fatti, come è stato fatto disastrosamente nella prima fase, solo e unicamente alle persone positive. La ragione che viene addotta è che non ce la fanno. E io mi chiedo, ma non potevano prepararsi prima? Non hanno avuto 5 mesi di tempo? Ma io temo che ci sia sotto un'altra ragione. E cioè in questo modo, ovviamente, diminuirà il numero di tamponi che verranno realizzati. Ovviamente la maggioranza sarà positiva se li fai solo sui sintomatici, ma diminuiranno i numeri dei tamponi che vengono realizzati. E quindi poi sarà difficile discutere su qual è la tendenza dell'epidemia. E dal punto di vista della medicina pubblica, questo è veramente un disastro, la rinuncia ai tamponi stabilita dalla ATS, dei tamponi ai contatti stabilita dall'ATS di Milano. C'è un altro aspetto. Il presidente della Regione Lombardia, insieme ad altri presidenti della regione, ha detto che è ingiusta la misura assunta rispetto alla Lombardia e noi non stiamo andando così male. Peccato che nelle stesse ore proprio la Regione Lombardia ha fatto un'altra circolare. Io ho la fortuna che tanti colleghi, pur non esponendosi direttamente, mi passano il materiale. In quest'altra circolare c'è l'indicazione secca a tutti i direttori generali di ATS e SST a trasformare degli altri reparti ospedalieri nei reparti Covid in modo da arrivare nel giro di pochi giorni a disporre di 3.500 posti letto in più. In queste ore, in alcuni ospedali, lo so da testimoni che mi hanno avvisato, stanno lavorando per trasformare i reparti. Allora significa che i dati non sono così buoni come stanno o hanno tentato di affermare. Ancora un altro ragionamento. Noi non possiamo fermarci a vedere i dati come vanno un giorno o l'altro giorno. Guai a coloro che di fronte a un calo che si dovesse verificare domani o dopodomani cominciassero a chiedere che la nostra regione o altre regioni cambiassero immediatamente colore. Bisogna analizzare la tendenza. Vedere se queste misure che sono state assunte danno o non daranno dei risultati. E questo non lo possiamo vedere nel giro di 2 o 3 giorni. Quello che sicuramente non è serio è dire sta andando tutto bene e intanto far costruire, far trasformare i reparti ospedalieri immediatamente perché c'è bisogno di altre migliaia di posti letto. Qual è la logica che c'è dietro questo decreto nazionale? C'è una logica che era già stata anticipata dal decreto precedente, molto semplice, e cioè non dobbiamo toccare il mondo del lavoro, non dobbiamo toccare il mondo produttivo. Ed infatti, ad essere tagliati, e io vi chiedo per favore condividete questo video, fatelo girare perché contiene informazioni, chiavi di lettura che possono essere utili, magari anche discutibili, ma utili, per cui per favore condividete il video. Allora, il tentativo che stanno cercando di fare è lasciamo aperto completamente il mondo del lavoro e tagliamo il tempo libero, il tempo della ricreazione, il tempo della socializzazione e via dicendo. E infatti, se notate, i bambini nei giardinetti non possono andare, ma tolti i negozi al dettaglio, tutto il resto rimane aperto. E non è aumentato minimamente il numero di ispettori della medicina del lavoro, anzi, l'unico settore che non viene mai citato è la medicina del lavoro. Ecco, io penso che qualche riflessione la dovremmo fare sul potere enorme che Confindustria, Confcommercio continua ad avere. Attenzione, dividiamo bene le cose. È necessario il sostegno economico alle persone che rimangono senza lavoro. Si dovrebbe pensare a una misura generalizzata perché tutti quelli che fanno lavoro nero, tutti quelli che non hanno un contratto ufficiale, tutte le partite IVA rimangono da sole, abbandonate. Ma questo è un tema. Altro è che non si va a fare sorveglianza su cosa accade sui luoghi di lavoro. Quello rimane tutto aperto. Quindi è un decreto che colpisce lo spazio di vita quotidiano, sociale delle persone. Dopodiché, un decreto che era necessario, è arrivato in ritardo, avrebbe dovuto essere più preciso anche sul mondo del lavoro. Io questo lo continuo a ripetere. Finalmente recepiscono quello che in tanti continuavamo a dire da tempo, e cioè la capienza dei mezzi pubblici deve essere il 50% e non di più, perché il mondo del lavoro e i mezzi pubblici sono le vie di trasmissione principali del virus. Vorrei fare un ragionamento veloce sulla scuola. Probabilmente non tutti quelli che mi ascoltano saranno d'accordo, ma in coscienza lo voglio fare. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stasera ha fatto, anzi oggi in giornata, ha fatto un lancio di agenzia dicendo due cose. La pandemia sta crescendo e sviluppandosi fortemente in tutta Europa, e ha poi lanciato un appello perché non siano chiuse le scuole. Allora, ragioniamo un attimo sulle scuole. Primo, c'è stata una grande confusione su un articolo pubblicato da Lancet. Lancet ha pubblicato uno studio su 136 paesi e ha detto: nella somma di questi paesi, la scuola è tra il quarto e il quinto posto come via di diffusione del virus. Ma attenzione, in quei 136 paesi ci sono tutti i paesi del sud del mondo, c'è l'India, c'è i paesi dell'America Latina, ci sono i paesi dell'Africa, dove andare a scuola vuol dire trovarsi in 40, 50, dove non può essere rispettata la distanza, dove non hanno le mascherine per tutti, una cosa molto diversa dalla nostra situazione. Trasportare quei dati che riguardano un'indagine a livello mondiale nella realtà italiana è sbagliato. I dati in Italia ci dicono che la trasmissione del virus nelle scuole è limitatissima. I problemi sono altri. Il problema è evitare il contatto eventualmente dei bambini con i nonni. Tutti sanno, e io lo ripeto sempre, i bambini si infettano di meno, evolvono molto di meno, non arrivano quasi mai al decesso, ma possono trasmettere il virus. Allora il problema è la distanza intergenerazionale, è la cosa fondamentale. E poi ragionate su un'altra questione. Se il virus si trasmettesse a scuola, noi dovremmo avere che ogni volta che c'è un bambino positivo, in quella classe si individuano altri 2, 3, 4 bambini positivi. Non avviene così. Certo, capita che più di un bambino in una classe positivo è sì, magari l'amico del cuore, ma non ci sono casi in cui l'intera classe, una parte significativa della classe si infetta. Questo che cosa vuol dire? Che le infezioni quel bambino l'ha contratta fuori dalla scuola e che le vie di trasmissione sono soprattutto fuori dalla scuola. Certo, adesso c'è il lockdown, attenzione, il lockdown c'è in alcune regioni, ma provate a pensare nelle regioni in cui non c'è il lockdown o anche qui quando non c'era il lockdown, se si va a chiudere la scuola, non è che si fa scomparire una generazione. E quindi quei ragazzi, quei bambini dove vanno? Cosa fanno durante la giornata? Andavano nei giardini, giocavano insieme. Allora è lì che bisogna vedere se avviene eventualmente la trasmissione tra i minori, ma non tanto nella scuola dove c'è un controllo, c'è la distanza e via dicendo. Dico questo perché l'OMS sottolinea l'importanza da un punto di vista educativo di lasciare le scuole aperte. Qui se le chiudono per un altro motivo, perché non hanno potenziato i mezzi pubblici di trasporto. E questo mi sembra una cosa da dire. Andiamo avanti, passiamo a un altro fatto. Guardate che l'allarme non c'è solo in Italia. Adesso dico una cosa abbastanza purtroppo impressionante. In Svizzera, quindi in un paese europeo, è stata assunta la decisione di stabilire il criterio attraverso il quale vengono scelte le persone che saranno assistite. In alcuni cantoni gli ospedali rischiano di essere pieni e allora hanno stabilito un criterio che è fondato prima di tutto sull'età e poi sulla presenza delle patologie croniche. Cioè una società stabilisce a quali persone è disposta a rinunciare e abbandonare al loro destino. Certo, se ci sono quattro letti e cinque malati, si tratta di scegliere, ma non dobbiamo e non dovevamo arrivare in questa situazione. Ecco le ragioni anche del lockdown. Dobbiamo evitare di trovarci anche noi nella situazione alla quale si sta preparando la Svizzera. Si è parlato tanto di vaccino e anche qui in modo tranquillo, sereno, voglio dire, al presidente del Consiglio Conte che non in questa conferenza stampa, ma nella conferenza stampa di qualche giorno fa, davanti a milioni di italiani, ha detto: tra fine novembre e dicembre avremo a disposizione il vaccino. Non illudiamo i nostri concittadini. Non diciamo una cosa che non è vera. Il vaccino non c'è adesso e non ci sarà nemmeno per i prossimi mesi. E io vorrei essere sicuro che quando il vaccino arriverà sarà un vaccino efficiente, efficace e sicuro, con una sicurezza come minimo all'80-85%. L'ho spiegato la volta scorsa. Allora, visto che purtroppo il Presidente del Consiglio una settimana fa ha detto: il vaccino sarà qua a momenti. Ecco, no, non è questa la situazione. Ancora un'altra questione, relativamente al vaccino invece antinfluenzale. Il caos è assolutamente totale in alcune, regioni. La situazione attualmente in Lombardia è che è aperta la possibilità di prenotarsi sul sito delle ATS, cioè delle ASL, ma che i tempi di prenotazione, cioè la data in cui si può fissare la vaccinazione, sono ormai date molto molto lontane. E questo riguarda le persone fragili, patologie croniche e sopra i 65 anni. Molti medici hanno deciso di non fare la vaccinazione antinfluenzale e questo è un altro problema. Passiamo a parlare di una questione che riguarda tutta l'Italia. Anche qui io non voglio sempre dare notizie, negative, ma dobbiamo guardare la realtà in faccia. Allora, è stato detto che arriveranno i tamponi rapidi per i medici di famiglia e che li potranno fare direttamente loro. Sì, arriveranno i tamponi rapidi, ma il problema è con quale organizzazione? Perché un medico di medicina generale non può fare il tampone dentro il suo studio, grande magari qualche metro quadro con una sala d'aspetto, perché rischia di concentrare in quello studio, esattamente come avviene nei pronto soccorsi, persone che vogliono fare il tampone perché sono stati contatti, ma che magari sono negativi, persone che sono positive, ma che vogliono fare il tampone per vedere se sono nel frattempo diventate negative, persone che temono di essere diventate positive. Vi immaginate che cosa vuol dire tutte queste persone all'interno della stessa sala d'aspetto del medico? Io penso che sarà bene che le regioni e le ASL, le ATS si organizzino, che quei tamponi rapidi, veloci, vengano fatti in luoghi adatti, con medici che fanno i turni, perché altrimenti, e questa ha ragione l'Ordine dei Medici di Milano, ma riguarda tutta Italia, noi trasformiamo quegli ambulatori in luoghi di diffusione del virus. E questo non deve assolutamente avvenire. Quindi attenzione quando vengono dati degli annunci che sono molto forti da un punto di vista pubblicitari, ma che invece nei fatti hanno ancora tanti, tantissimi limiti. Vediamo adesso alcune domande. Innanzitutto, però, volevo anche darvi un'altra informazione. Non si sono fatti grandi passi avanti sulla terapia e più andiamo avanti, più le questioni diventano complicate. È uscito uno studio che analizza l'utilizzo di tutti i farmaci che sono stati usati fino adesso e dice addirittura che anche il remdesivir non porta a un abbattimento significativo dei decessi. Allora, anche qui vorrei spiegare che cosa significa questo. È una ricerca che dice che non si vede un numero significativo di diminuzione dei decessi con l'uso di quell'antiretrovirale, ma si vede invece una diminuzione statisticamente significativa delle persone che evolvono verso la fase avanzata. Quindi ha un risultato di mid-term positivo, invece incide di meno su quel numero ristretto di persone che arriva verso il decesso. Quindi è utile come farmaco per evitare l'evoluzione della malattia, quindi per evitare che più gente stia male, che soffra, che vive in condizioni anche disperate. È meno utile di quello che si poteva sperare per ridurre il numero totale di decessi. Ecco, questa è un'altra notizia. Allora, vediamo Cosa dice? Le lettere oggi, il TGR ha messo il comune di Vittuone con la proporzione di contagi di abitanti più alte della provincia di Milano. Questo purtroppo dipende dall'RSA. Non abbiamo imparato nulla. Allora approfitto, effettivamente c'ho diversi segnali di una ripresa di diffusione del virus anche all'interno dell'RSA. Non ci sono i controlli. E questo è il problema. Non ci sono i controlli. Ministero, Regione, ATS non fanno la sorveglianza sanitaria rispetto all'RSA. Siamo ancora nelle mani del personale e ovviamente dei cittadini che arrivano a fare la segnalazione. Colgo l'occasione per un'altra domanda che c'è qui per spiegare cosa avviene con i medici, perché è stata fatta molta confusione. Non è una questione che riguarda solo la Lombardia, riguarda tutta Italia. Attenzione a questo passaggio, è un po' complicato, ma provo a spiegarmi. Allora, quando una persona viene in contatto con una persona positiva, quella persona, se è un contatto stretto, va in quarantena. Va in quarantena per 10 giorni e poi, se è asintomatica, fa il tampone e può tornare fuori, oppure va in quarantena per 14 giorni e poi, se è asintomatica, può tornare fuori senza tampone. Questo riguarda tutti, tranne i medici e il personale sociosanitario, non solo i medici, lo dico perché mi ha scritto un'operatrice sociosanitaria di un RSA che è stata trattata in questo modo. Purtroppo è così. Cioè, se un operatore sanitario viene in contatto con una persona positiva, al di fuori della sua attività professionale, cioè per esempio un medico che ha il marito o la moglie, che è positiva, quindi ha un contatto extra professionale, questo medico, questo operatore sanitario non va in quarantena, ma continua a lavorare e viene sottoposto al tampone una volta ogni 5 giorni. Andrà in malattia solo se è sintomatico, se il tampone è positivo. È una scelta che stabilisce un criterio diverso per il personale sanitario. Da cosa è motivato? Dal fatto che altrimenti si rischierebbe di rimanere con scarso personale sanitario in ambito sanitario. Sì, ma dall'altra parte qual è il problema? Che si rischia di far lavorare del personale sanitario per 5 giorni che è positivo e che può trasmettere il virus. Quindi attenzione, qualcuno ha scritto una roba sbagliata nei media. Non è che i medici positivi asintomatici vanno a lavorare, no. Vanno a lavorare i medici e il personale sanitario, contatto stretto extralavorativo di persone positive, non vanno in quarantena e sono monitorati col tampone ogni 5 giorni. Il rischio di diffondere il virus esiste comunque. È una scelta dovuta al fatto che siamo con poco personale sanitario sempre perché non sono state fatte le assunzioni. E allora si trovano questo tipo di soluzione, che però sono soluzioni estremamente problematiche. Quindi spero di essermi riuscita a spiegare. C'è un altro aspetto che riguarda, e vedo che c'è anche una domanda su questo, che riguarda il lavoro. Qui ci sono problemi enormi. Stasera mi prendo qualche minuto in più e mi scuso. Problemi enormi. Una telefonata che mi è arrivata ieri sera sintetizza la questione. Due esempi. Primo, persona contatto in famiglia di persona positiva. Sta a casa 10 giorni, gli fanno il tampone, negativo, va a lavorare, tutto bene. Sta a casa 14 giorni, non gli fanno il tampone, e in Lombardia ormai in questo caso non lo fanno più perché no, non ci sono le strutture, non si sono organizzati. Dopo 14 giorni che è asintomatico, la persona può tornare al lavoro. Secondo caso, persona risulta positiva. Passano 21 giorni. Dopo 21 giorni è ancora positivo, ma da oltre una settimana è asintomatico. È stato recentemente stabilito a livello nazionale che dopo tanti giorni di asintomaticità, anche se uno rimane positivo, può tornare a lavorare. Che cosa accade in questi due casi che sono diversi fra di loro, ma vanno a finire nello stesso disastro? Che molti datori di lavoro e molti miei colleghi medici del lavoro dicono: no, senza tampone negativo, tu non torni al lavoro. L'ATS dice: io non ti faccio il tampone perché sei asintomatico da 14 giorni. A quel punto, al lavoro non può andare. Il tampone non gli viene fatto. Chiede al medico di famiglia di prolungare la malattia. Il medico di famiglia dice: non posso prolungare la malattia. Perché? Perché è 14 giorni che sei asintomatico, oppure perché è vero che sei ancora positivo, ma sei da diversi giorni asintomatico. La legge non mi permette di prolungare la malattia. Beh, queste persone sono costrette, se il datore di lavoro non viene incontro con altri meccanismi, ad utilizzare le ferie. È una cosa inaccettabile. E allora qui si va a dover sentire il sindacato, a vedere se si può fare un'avvertenza sindacale. Ma con rischio di trovarsi contro i propri compagni di lavoro che dicono: senza tampone negativo tu rischi di infettarmi. Ma sono state cambiate le regole perché le strutture sanitarie non reggono più a fare i tamponi. Sottolineo questo caso perché è una situazione problematica. Altrettanto situazione problematica si è verificata in alcune scuole, cioè bambini che stanno a casa perché sono contatti di un compagno di classe. Non gli viene fatto il tampone dopo 10 giorni, rientrano dopo 14 giorni che sono negativi e il dirigente che dice: no, voglio un tampone per essere sicuri che siate negativi. Il medico dice: possono andare, le famiglie non possono continuamente tenerli a casa e la situazione si blocca. Ecco, c'è un momento, una fase di veramente enorme, enorme confusione e anche difficoltà. Io vi ho spiegato quelle che sono le leggi, le regole. Qualcuno mi chiede: ma queste hanno motivazioni scientifiche? Io dico: qualcuna motivazione scientifica, altra è il risultato tra scienza e aspetti economici e valutazioni economiche. Allora vediamo qua le vostre domande. Volevo, ecco, vi chiedo sempre di condividere per favore il video. Vi ricordo, prima di vedere le vostre domande, che il libro è uscito, che è in libreria nella sua seconda edizione, che si può ordinare anche attraverso il web ed altra economia. Vediamo le domande. Volevo chiederti: mia figlia di 18 anni è positiva al Covid, ha sintomi, raffreddore e spossatezza, ma anche una congiuntivite che mi preoccupa. Volevo sapere se ci sono informazioni sulle possibili conseguenze agli occhi della congiuntivite provocata dal Covid e che trattamento potrebbe prendere. Non do informazioni cliniche, questo lo dico sempre perché non sto visitando le persone. No, non ci sono in genere conseguenze continuative nel tempo, una volta che uno è guarito, rispetto agli occhi. È vero che per un malato Covid la regione Lombardia paga 2.000 euro al giorno, quindi il doppio rispetto a un paziente con altre patologie? Non lo so, i dati non sono stati resi pubblici nonostante dei consiglieri regionali li abbiano chiesti più volte. E poi Cina, Cuba e Russia arriveranno molto prima. Perché comprare Oxford? Guardate, non mi appassiona questa gara. Non so chi arriva prima al vaccino. E vi ho già detto diverse volte che molte volte è una gara giocata sulle ricadute finanziarie in borsa degli annunci. Quello che trovo scandaloso è che non ci sia una collaborazione internazionale. Sono oltre 200 i progetti di ricerca sul vaccino, una decina sono arrivati in fase 3, nessuno che pensa a una forma di collaborazione internazionale. Leggo ancora una domanda. Radio Popolare, ho sentito un'intervista al sottosegretario alla salute, la quale afferma che un gruppo di ricerca italiana è vicino a realizzare un farmaco capace di neutralizzare la carica virale. No, sono delle ricerche sperimentali, i tempi sono lunghi, ci sono stati alcuni primi risultati. Evitiamo di enfatizzare dei risultati solo perché avvengono in Italia. Sono passi avanti, ma assolutamente non immediati. Dopo sintomi di Covid, l'ATS fa il tampone. Boh, non si capisce la domanda. Va bene. In altri paesi europei, conciati peggio di noi, le scuole sono aperte. Come mai? Perché c'è un'attenzione più importante ai dati che riguardano l'educazione e che riguarda la formazione delle giovani generazioni. Qui si è fatta una mediazione. Io spero che i bambini fino alla prima media possano continuare a frequentare. Ripeto, L'attenzione va posta soprattutto da altre parti. Ovviamente, se i bambini rimangono a casa, è chiaro che devono stare a casa anche i genitori. Guai se si lasciano a casa i bambini e si mandano a lavorare i genitori. Perché la conclusione quale sarebbe? Che i bambini vengono affidati ai nonni e quindi questo non va assolutamente bene. È vero che chi fa il vaccino antinfluenzale, il tampone Covid. È vero che se si fa il vaccino antinfluenzale il tampone Covid è positivo? No, assolutamente non facciamo confusione, non c'è questa sovrapposizione, così come non è vero che il vaccino antinfluenzale aiuta e risolve o comunque fa sì che le persone si infettano meno di Covid. No, sono due cose che viaggiano separate. Se uno fa il vaccino antinfluenzale e ha una serie di sintomi, il medico è più portato a pensare che non sia influenza. Però sono ragionamenti di altro tipo. Chi fa il vaccino antinfluenzale può sperare di avere meno probabilità di contrarre l'influenza. Queste sono le informazioni che possiamo avere fino a questo momento. Io mi fermo qui per stasera. Penso di aver dato molte, insomma, delle informazioni di cui disponevo. Sicuramente la situazione è ancora molto, molto confusa. Vi chiedo solo di riflettere su un messaggio importante. In queste ore c'è in corso una riunione, si sta decidendo se in Lombardia si conferma o meno la mobilitazione davanti alla regione. Credo che sia problematica con le misure di lockdown che sono state assunte. Stiamo aspettando di sapere anche cosa dice la questura e cosa dice la prefettura, ma indipendentemente dalla mobilitazione, una cosa sia chiara. Non era per nulla scontato che si doveva arrivare a questa situazione. Siamo arrivati a questa situazione perché si sono buttati via 5 mesi. Siamo a Milano, nella regione più colpita, senza un sistema di sorveglianza, un sistema di controllo epidemiologico. Adesso ci annunciano che non si fa neanche più il contatto, il tampone ai contatti, in una situazione veramente dove la parte territoriale del servizio sanitario è crollata. Chi pensa che si può reggere solo con gli ospedali dice cose che non sono vere. È una pura e assoluta illusione. Adesso dobbiamo darci tutti da fare, io cercherò di dare le informazioni nel modo più preciso, ognuno faccia la sua parte. Ma penso che dopo non potremo dimenticarci di chi si è assunto la responsabilità di lasciare che la situazione evolvesse con queste modalità. Ci sono paesi che hanno avuto comportamenti e atteggiamenti diversi, di cui non si parla mai. Si parla solo di altri paesi che sono in situazioni simili alla nostra. Andate a vedere cosa hanno fatto in Portogallo, andate a vedere quale medicina territoriale è stata realizzata e sviluppata in un paese che ha meno risorse, ha meno posti letto, ma le case della salute, ma agli operatori che lavorano in equipe sul territorio, o andate a vedere in altri paesi dove a un certo punto, per esempio in Irlanda, hanno detto basta sanità privata, durante l'emergenza tutti i medici che fanno attività privata lavorano per la struttura pubblica, le persone che hanno assicurazione privata non la possono usare durante l'epidemia, tutti stanno dentro le leggi che riguardano l'insieme dei cittadini, nessuno scavalca assolutamente le code e via dicendo. Delle liste di attesa, intendo dire. Allora, si poteva e si può ragionare in modo anche diverso. E se posso lanciare un appello, che lo lancio a tutte le istituzioni: avete dichiarato lo stato d'emergenza, utilizzate lo stato d'emergenza anche per prendere decisioni drastiche sulla sanità. Obbligate le strutture private, le cliniche private, la Lombardia, il Lazio, la Sicilia, la Campania sono piene di strutture private non convenzionate a lavorare col pubblico, altrimenti requisite le strutture. Non si può dire gli ospedali scoppiano e poi dopo avere invece strutture private che vanno avanti assolutamente per conto proprio, assolutamente non toccate dal Covid. Io ritengo questo un passaggio assolutamente e totalmente immorale. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, mi scuso che sono andato un po' in lungo. Purtroppo, torneremo a fare dei collegamenti periodici e annuncerò via Facebook quando, ma torneremo a fare almeno un collegamento alla settimana. ringrazio e buona serata a tutti e a tutte.